Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Terapie sempre più efficaci e mirate per le persone affette da un tumore del sangue, immunoterapia e tecnologia CAR-T sono due opzioni terapeutiche in grado di fare la differenza anche per quanto riguarda la qualità di vita delle persone. Questo è il messaggio al centro della 15ª giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mielomia. Si celebra domenica 21 giugno. A Obiettivo Salute il commento del professor Sergio Amadori, presidente nazionale AIL. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, diciamo che ci sono buone notizie per i pazienti affetti da tumore del sangue. In questo ultimo decennio sono stati fatti progressi straordinari. Oggi abbiamo un pacchetto di terapie innovative per tutti i tumori del sangue, fino ad arrivare a programmi di immunoterapia e, per ultimo, quello delle CAR-T, che rappresentano veramente dei progressi straordinari. Devo dire che, per quanto riguarda soprattutto le CAR-T, che sono uno degli argomenti all'ordine del giorno, anche per la pubblica opinione, questa è una terapia che ormai è entrata di peso nel nostro paese, con l'approvazione dell'AIFA, delle prime terapie da utilizzare nei linfomi maligni a grandi cellule B e nel linfoma mantellare. Ma altri tumori sono in viaggio per poter ottenere l'approvazione per le cellule CAR-T. Una potente nuova terapia in grado di risvegliare il sistema immunologico del paziente affetto dal tumore per una battaglia e poter vincere una battaglia più facilmente nei confronti di tumori assolutamente resistenti. Professor Amadori, come ogni anno, alcuni tra i più illustri ematologi italiani saranno a disposizione di chi ne ha bisogno per fornire risposte e consigli al numero verde AIL, i problemi ematologici, dalle 8 alle 20 di oggi, venerdì 19 giugno, ma c'è una buona notizia, una novità. Professore. Sì, la novità è che accanto alla giornata di oggi, che prevede 12 ore di disponibilità di 8 colleghi ematologi per rispondere alle domande del pubblico, noi abbiamo deciso per quest'anno di estendere la durata di questo numero verde, di questa linea diretta con gli ematologi per tutto l'anno, facendo la trasmissione 5 giorni alla settimana per 2 ore al giorno. È un modo per stare ancora più vicini ai nostri pazienti e l'abbiamo fatto soprattutto perché la pandemia da Covid ha creato ovviamente molte preoccupazioni a loro e noi vogliamo tranquillizzarli sulla possibilità di continuare tranquillamente le terapie che vengono erogate. Professor Amadori, grazie. Ricordo il numero verde che mettiamo sulla pagina Facebook anche naturalmente del programma, 800 226 524. Bene, per oggi è tutto. Sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, il nostro incontro a tu per tu con Maria Giovanna Luini, medico, scrittrice. Parliamo del potere terapeutico di scrittura e lettura. Vi aspetto, non mancate. Una buona giornata.